Sai che ognuno di noi ha dei cassetti dove tiene più speranze che può, ma a volte ce li danno un po' stretti ed il destino deve dirci di no. E ci fa invidiare chi è più banale o chi dice d'essere meglio di noi. Ma tu non devi farti ingannare, resisti come sei più a lungo che puoi, perché è così che imparerai a sopravvivere. A sopravvivere. Sai, da giovane vorresti arrivare dove nessuno è mai riuscito, ma poi capisci che non può funzionare, c'è solo rabbia, niente gloria per noi. E il tempo inghiottirà anche i tuoi anni e cambierà i ricordi che hai. Dovrai tenere conto dei danni e conservar ciò che di buono farai, perché è così che imparerai a sopravvivere. Sopravvivere.